Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, sono Nino Ciravegna, Sole 24 Ore, benvenuti a Magazine 24, sarò in vostra compagnia oggi e domani. Incominciamo subito con Il, che è il mensile del Sole 24 Ore, che dedica la copertina alle loggerie, in cui dice la cricca, la P3, carboni carbonari, poteri forti fantocci, è lo slogan del paese. Come mai, si chiede Il, l'Italia sembra sempre un paese fondato sull'intrigo? E racconta un po', esamina tutte le varie storie, al di là della cronaca di questi giorni che ha visto dei personaggi del malaffare legati in affari più o meno sporchi, fa l'analisi delle varie sette che si sono formate anche nel corso dei secoli, racconta di come perfino i massoni americani non si sono mai fidati delle logge italiane perché ritenute poco affidabili, racconta delle sette politiche che si sono formate nel corso degli anni e anche quelle religiose, in cui c'è anche un'esperienza diretta di una signora che racconta la vita dentro l'Opus Dei, raccontando un po' i riti, un po' le abitudini che ci sono in questa che non si può chiamare setta, ma sicuramente un'associazione religiosa che ha sempre mantenuto un'aurea di segretezza. Oltre a questa analisi sulle sette più o meno finte, anche sulla mafia nostra e la mafia giapponese, che è sempre stata caratterizzata da una grande attività di esoterica, tant'è che Giovanni Brusca ha detto la segretezza è la prima vera natura del mafioso, si raccontano anche un po' di casi curiosi ed particolari, come il fatto che secondo alcuni, ma non è provato storicamente ovviamente, il massone Roosevelt avrebbe addirittura caricato di significati massoni l'effigie del dollaro. Il prosegue anche con un servizio molto interessante, un viaggio particolare, raccontando il Vallo di Adriano, quello che era stato costruito dall'imperatore romano in Gran Bretagna per proteggere la nuova colonia romana dall'invasione dei barbari, 118 chilometri che dividono in due la Gran Bretagna e che mantengono ancora intatti in molti punti i resti romani e che muovono anche mezzo milione di turisti ogni anno che vanno a vedere questa incredibile fortezza che non è grande come non ha la possenza della grande muraglia cinese, ma che comunque mantiene intatto il grande fascino anche perché attraversa una parte di campagna inglese che ha mantenuto intatte le vestigia romane. Ed è anche un viaggio che si può fare a piedi perché ci sono strade e sentieri che sono molto inusuali per un turismo alternativo. Il prosegue anche con un grande viaggio nello stadio del Bernabéu di Madrid, entrano i gladiatori e il titolo, pellegrinaggio in uno dei più grandi tempi del calcio mondiale da sempre legato a doppio filo con l'Italia, che qui vinse il campionale e due coppie dei campioni, l'ultima con il nuovo padrone di casa, si riferisce a Mourinho, e racconta di come con 16 euro si possano vedere la curva sud, pranzare, e andare a fare i giri nello stadio, nel museo, una cosa che gli appassionati di calcio sicuramente apprezzeranno. Una curiosità in tema estiva è fatta dal racconto, anche bello fotograficamente, della visita all'ultima fabbrica italiana che produce i pattini sul mare, quelle mitiche barche in legno a doppio scafo che vengono o venivano soprattutto usate fino a qualche anno fa e che hanno molte particolarità, ci sono molti modelli, c'è il modello Versiliano, il modello Riccione, il modello Rimini e questa fabbrica in cui convivono nuove tecnologie e sapienze artigianali è rimasta l'unica e per costruire questo scafo che dicono regge meglio il mare, degli scafi di plastica, dura di più, tant'è che quelli di plastica quando si rompono vengono buttati via, quelli in legno vengono invece durano 50 anni ed è un curioso e interessante viaggio tra passato e moderno. Il fa anche dedica una curiosa pagina con 6 illustrazioni col titolo Piccolo Lord, come dice, che spiega come attaccare il bottone in 6 mosse per chi ovviamente è a casa da solo e non può utilizzare i grandi, la sartoria o la moglie, se del caso. C'è un'ultima cosa che vi voglio segnalare di Hill, c'è questo viaggio molto interessante perché ci permette di vedere cose che i passeggeri normali non vedono. E Paco con le ali, vestiti la moda, tonno e aragoste all'andata, tecnologie e prodotti industriali ritorno. Se i mercati finanziari fanno ancora i capricci, le merci hanno ripreso a volare. E noi le abbiamo seguite, queste merci, infilandoci in un cargo diretto a Hong Kong. Questo viaggio ci permette di vedere tutte le fasi automatizzate e manuali che servono per caricare un cargo, per sistemarlo, con la maestria necessaria per evitare che ci siano squilibri nel carico e vedere anche come cambiano le varie tipologie di merci che partono o arrivano attraverso questi aerei immensi e che sono anche un segnale, un termometro di una ripresa avvenuta e anche di come sono cambiati i grandi commerci in quest'epoca di globalizzazione. Cambiamo rivista, passiamo a Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana, quando interviene sulla politica, continua a essere analizzata perché i suoi interventi fanno polemica, creano polemica e in qualche modo rappresentano la linea della Chiesa, anche se non la linea ufficiale del Vaticano, perché spesso tra Famiglia Cristiana e Vaticano ci sono stati dei piccoli, leggeri scontri. Famiglia Cristiana interviene ancora sulla politica degli stracci tra risse e regolamenti di conto, questo è il titolo, e parte con una citazione del Cardinal Dionigi Tettamanzi, che è l'arcivescovo di Milano, che il Cardinale dice: corriamo tutti il rischio dell'individualismo e dell'egoismo, atteggiamenti gravi e dannosi quando realizzati da coloro che da cui ci attenderemo un contributo decisivo alla costruzione del bene comune. Penso alla politica, al sindacato, all'impresa, all'economia e addirittura in alcuni modi di vivere l'esperienza ecclesiale. Famiglia Cristiana, continuando nella sua analisi, dice: settembre riserverà un brusco risveglio, la ripresa è debole, soggetta da pesanti concorrenze dei nuovi mercati dell'estremo oriente e quindi dovremo fare di più. Ma il paese è paralizzato sotto ricatto, leggi e favori come il mercato delle vacche sono oggetto di baratto federalismo in cambio di intercettazioni. Famiglia Cristiana è molto pesante in questa analisi e conclude con la clava mediatica contro chi mette a nudo il re è un terribile boomerang in un paese che affoga in una melma di corruzione, scandali e affari illeciti. È naturale che un fondino di questo genere, soprattutto fatto da Famiglia Cristiana e non da un giornale politicizzato, abbia creato molte polemiche e molte tensioni. Famiglia Cristiana dedica un ampio servizio al mestiere di rischiare dedicato ai giovani, raccontando le storie di chi ha provato a inserirsi nel mondo del lavoro, chi ha provato a formarsi una famiglia pur non potendo contare su redditi certi, e storie di giovani che hanno abbandonato o gli studi o hanno seguito il loro bisogno di sperimentarsi con forme nuove, raccontando di chi si è dedicato al volontariato, di chi ha seguito il suo sogno di ballare preferendolo a un impiego certo, e conclude con un'intervista a un docente di storia dell'educazione della Cattolica di Milano che dice: a volte è meglio saltare la scuola per seguire i propri bisogni, perché essere costretti ad andare a scuola vuol dire in qualche modo non seguire gli istinti o le necessità e i bisogni dei figli. È un discorso difficile da fare, ma a volte ce n'è bisogno. Una cosa curiosa che ho trovato molto interessante e molto divertente è un'inchiesta fatta col titolo L'altra metà del mare, in cui racconta le donne che vivono sul mare, le campionesse, come la campionessa velistica di Alessandra Sensini, le campionesse di nuoto, ma anche racconta la storia di Maria Zamarin, che vola con gli elicotteri, è una friulana che fa l'apprendista pilota della Guardia Costiera, che dice: è bello sapere che il mio lavoro servirà a salvare delle vite. E poi racconta anche una storia bellissima, molto intrigante, su l'unica italiana che aveva vinto un concorso per fare la farista, è stata 20 anni nel Golfo sul Gargano, in un faro sul Gargano, oppure anche la storia della prima donna e per il momento unica che è comandante di una nave da crociera, governa una nave con 2.400 passeggeri, racconta come ha fatto. Famiglia Cristiana poi fa una lunga chiacchierata con Raman, che è un indiano che dipendente della Google, che adesso è a Milano e che racconta il suo internet senza confini. Questo Raman ha perso la vista a 14 anni ed è stato il primo non vedente che ha risolto il cubo di Rubik in versione Braille e adesso si occupa, per conto di Google, di trovare tutti gli strumenti, tutte le possibilità che ci possono fare perché anche i non vedenti o i disabili possono utilizzare internet. Una missione abbastanza difficile, perché internet è fatto di visualizzazione, è fatto di immagini, però Raman sta lavorando con un'equipe anche a Milano per affrontare un tema su cui non abbiamo spesso riflettuto adeguatamente. Ricordo che in Google ha 20.000 dipendenti, 10 miliardi di patrimonio dei due fondatori. Un'ultima curiosità che troviamo su Famiglia Cristiana, questo più golosa, è panettoni d'estate. In un paese di Vicenza la famiglia Loison sforna per tutto l'anno eccellenti panettoni che per metà vanno all'estero. Questi panettoni d'estate sono, a parte la golosità di questa famiglia Loison, sono tornati di grande attualità in questo periodo, quando il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha proposto di utilizzare e vendere i panettoni non solo a Natale ma per tutto l'anno, e qui questo evidenzia che una piccola azienda a carattere familiare che ha impianti automatizzati ma fa ancora molte lavorazioni a mano, è possibile avere un mercato di questo dolce tradizionale di Natale. Magazine 24. Bene, bentornati su Magazine 24. Riprendiamo con la lettura presso la nostra edicola elettronica con L'Espresso. L'Espresso dedica alla copertina un ampio servizio al terremoto dell'Aquila. Il titolo è Ritorno all'Aquila. Dice: centri storici abbandonati, strade invase dalle macerie, 30.000 ancora sfollati, 15.000 senza lavoro, nuovi alloggi già deteriorati, viaggio nell'Abruzzo del terremoto 16 mesi dopo le scosse. E questo racconto evidenzia anche, al di là dei problemi generali della ricostruzione e delle polemiche inevitabili che seguono sempre dopo un grave scisma, racconta anche storie di vita normale, come quando uno ha chiamato per nostalgia il numero della sua casa pericolante e un bel giorno ha sentito rispondere: chi parla? O come, chi parli, chi sei tu? E quelli dell'Aquila è stato il primo grande disastro italiano nell'era della comunicazione. La comunicazione non può certo aspettare. Per questo Telecom, secondo quanto detto da alcuni sfollati, sta assegnando ad altri i numeri dei contratti sospesi dopo il terremoto. Incomincia così l'oblio, quando perdi anche il numero di telefono. E racconta anche di aziende del caso dell'elettricità che continuano a chiedere le bollette anche se le case sono crollate, anche se sono in zone dove non ci si può abitare, e racconta anche come sia stato difficile convincere anche Sky o l'Enel per non dover pagare i servizi o consumi che non venivano effettuati. Ovviamente c'è anche un'analisi della parte più generale sui ritardi, sulle carenze legislative che hanno accompagnato questi 16 mesi per la ricostruzione. E ci sono anche delle immagini molto significative, compresi dei cartelli che dica cercasi e poi sotto dosi massicce di speranza, cosa che in questo momento in Abruzzo sembra mancare. Un altro servizio dell'Espresso è ovviamente dedicato alla politica, e parla in questo numero sulle elezioni. Si dice: se fossero elezioni boomerang C'è il nodo Quirinale, la resistenza dei deputati peones, il rischio di un flop al Senato. Il PDL invoca le urne, ma le incognite si moltiplicano e per questo motivo Berlusconi incomincia a nutrire molti dubbi. E c'è, legata a questa analisi politica, c'è anche un intervento di Massimo Cacciari che parla dell'illusione del grande centro, che dice che non si può pensare di costruire un partito di centro in un momento in cui tutto sta diventando molto fluido, molto magmatico, in cui sia il PDL che il PD stanno cambiando pelle e sono costretti ad aggiornarsi, quindi non vede la possibilità di un miracolo del terzo polo. Invece, a proposito di miracoli, c'è un bel servizio sulla sorpresa del calcio di quest'anno, di questo Portogruaro, che è una piccola città del nord-est che è riuscita per la prima volta ad andare nel campionato di Serie B pur non potendo vantare campioni e soldi con cui fare campagne acquisti, ed evidenzia anche un fenomeno che caratterizzerà il prossimo campionato, come il crollo degli abbonamenti nella Serie A, con cifre allarmanti, con la Lazio che ha perso il 75% degli abbonati, il Parma il 48%, il Cagliari il 60%, la Fiorentina il 37%. Sembra che nessuno voglia più andare a vedere il campionato, un po' per i prezzi molto alti, un po' per la comodità di vederlo direttamente da casa. Un ampio servizio dedicato a Giorgio Bocca, che a fine mese compirà 90 anni. Giorgio Bocca è una colonna del giornalismo italiano, insieme a Indro Montanelli ed Enzo Biagi, sicuramente tra i maestri della nostra professione. Racconta un po' di come lui, che si definisce anti-italiano, sta vedendo l'evoluzione in basso del nostro paese, e poi racconta anche un po' le sue debolezze e dice: lavoro molto, in autunno uscirà un nuovo libro. E poi ammette una cosa, che c'ha l'ansia di lavorare per superare la solitudine, ma anche l'ansia di guadagnare. Ancora oggi, ogni mattina, confessa Giorgio Bocca, leggo le quotazioni azionarie per controllare i risparmi, per vedere se ci ho guadagnato ancora. Questo è tipico dei cuneesi, come Giorgio Bocca, che sono sempre molto attenti ai loro soldi. E parlando di soldi, L'Espresso dedica un ampio servizio sulle occasioni da investire. Forte volatilità in borsa, bot e BTP con mini rendimenti, rischi in aumento sull'obbligazione aziendale, eppure non mancano le opportunità. Consigli per prudenti e coraggiosi. Generalmente sempre i giornali dovrebbero essere molto cauti prima di dare giudizi di investimenti, perché non è il nostro mestiere spiegare dove e su cosa investire, perché grazie al cielo facciamo un altro mestiere, dovrebbero essere i consulenti. Però L'Espresso evidenzia come, nonostante le incertezze del mercato, il fai da te si diffonde tra i risparmiatori, quindi segnala alcune opportunità e anche di alcuni temi da tenere d'occhio. Per esempio, dice, il dollaro, che nei prossimi mesi potrebbe recuperare parecchio nei confronti dell'euro, l'inflazione in Europa, le azioni delle società farmaceutiche, soprattutto elvetiche, i corporate bond delle società in attività anticicliche come gli utilities, le borse dei mercati emergenti, meglio se attraverso fondi o FT. Poi un'altra cosa che evidenzia, per chi ha patrimoni oltre 500.000 euro, è l'investimento in arte, in cui nelle banche si stanno attrezzando per avere ed esperti che consigliano sugli investimenti artistici. C'è l'Art Advisor, però penso che sia un tema che interessa poche persone, proprio per il suo rischio, per la necessità di incendi patrimoni. L'ultima cosa che vi voglio segnalare dell'Espresso è un servizio dedicato alla Cina. La Cina qualche giorno fa è balzata agli onori di cronaca perché ha superato il PIL giapponese, diventando il secondo posto, la seconda economia mondiale dietro gli Stati Uniti, e probabilmente fra 20 anni supererà anche gli Stati Uniti. Dedica: vi cureremo alla cinese. C'è una riscoperta della medicina tradizionale cinese, contro la malaria, l'angina, il diabete, per curare il fegato, i big dell'industria farmaceutica scoprono i prodotti della tradizione e li adattano alle esigenze del mercato di casa nostra. Molte industrie occidentali, scrive l'Espresso, sono già in Cina per investire miliardi di dollari nella medicina locale. Fra un po' non saremo più invasi solo dai prodotti magari di moda copiati dall'Italia, made in Cina, ma anche i farmaci. Continuiamo con Donna Moderna. Donna Moderna dedica ovviamente la copertina alla moda autunnale, facendo un gioco sul meteo moda, visto che quest'estate è stata caratterizzata da, almeno per l'Italia del Nord, da un agosto molto piovoso. E dice: la moda prevede giornate miti, a settembre e ottobre il sole sarà ancora caldo e la sera appena fresca, è troppo presto per tirar fuori dall'armadio cappotti e maglioni. E quindi il consiglio di Donna Moderna: il look giusto prevede short di cotone spesso, giacchine di peso medio, gilet bon ton, mentre invece in autunno spiega poi come cambierà la situazione. Ma mi piace di più, voglio segnalare un bell'articolo sulle ricerche bizzarre che sono fatte da anche università prestigiose e che sono veramente ridicole. Come lo sapete che le mucche battezzate, non ovviamente col il sacramento del battesimo, ma con un nome, producono più latte, e che la gelosia rende ciechi, racconta proprio tutta una serie di esperimenti che sono stati fatti anche da università illustre, come quando raccontano: cercate il fidanzato ideale, state attente che abbia una voce bassa alla George Clooney, perché sarà più fecondo, perché secondo l'università della California, chi ha la voce bassa è più prolifico. Oppure state attenzione a non abusare del BlackBerry o dell'iPhone. Secondo il Daily Telegraph, il 28% delle donne subirebbe un calo del desiderio per distrazioni tecnologiche. Oppure c'è anche l'Università di Harvard, ha fatto un'analisi evidenziando che i bambini nati d'inverno sono più belli e intelligenti. Oppure che le donne col sedere a pera, riportato così nei documenti ufficiali, sedere a pera, hanno maggiore memoria, mentre invece chi ha il naso grosso, l'orecchia sventola, previene meglio le malattie. Sono tutta una serie di cose bizzarre che comunque in questo periodo estivo fanno ridere. Allegato a Donna Moderna c'è anche Informa, un mensile dedicato a chi vuole stare bene seguendo diete o ginnastiche particolari. In questo numero parla della CRAP, un menù che è stato messo a punto in Australia e che dice: non è necessario non mangiare o contare le calorie, l'importante è evitare quattro nemici della nostra dieta. E i quattro nemici sono la caffeina, gli zuccheri raffinati, l'alcol e i cibi industriali. E questi medici australiani assicurano che, stando lontani da questi quattro nemici, è possibile mangiare tutto quello che si vuole senza per questo ingrassare. Direi che non è il caso di incominciare proprio in questo weekend a fare la dieta, ma sicuramente dopo. Noi ci sentiamo domani, grazie per l'attenzione e buon weekend.